Eccoci al volo in extremis con Melania Fiore che sta per andare in prova. Ciao, ben ritrovata. Grazie, ciao a tutti. Allora, fai tutto da sola, parlaci dello spettacolo. Faccio tutto da sola. Allora, dunque, sto per entrare in prova stasera. Sarà la prima di questo bellissimo spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Manfili, intervista ai parenti delle vittime, e con me come protagonista. Sarà in scena al Teatro dei Conciatori dal 21 marzo, da stasera, al 26 marzo, domenica. Che sarà invece alle 18. Spettacolo che è, diciamo, anche arricchito dalle bellissime musiche di Antonio Di Poti e dalle scene di Antonella Rebecchini. È un, potremmo dire, un bellissimo soliloquio di una donna che sta per prepararsi ad un appuntamento galante, un appuntamento a cena con un uomo dopo tanto tempo, e nel frattempo però si abbandona ad un furente corpo a corpo con la sorellina scomparsa, scomparsa appunto per una causa molto grave, e cioè per overdose. Però quello che è veramente il suo rammarico è non essere riuscita nell'intervista, perché avevano dedicato appunto a questa sua sorella uno special in uno di queste trasmissioni tipo reality, così, di non essere riuscita a dire quello che avrebbe veramente voluto dire. Quindi questo rapporto estremo, potremmo dire, d'amore e odio, questa lotta all'ultimo sangue con sua sorella, e diciamo una lotta per il posto da conquistare nella famiglia, insomma, in questo menage familiare alquanto disastroso. Quindi un testo assolutamente attuale, che ha dei momenti davvero struggenti e molto profondi e intensi, e anche ovviamente in alcuni momenti divertenti, perché ricorda appunto tutto il loro passato. E niente, è stato per me un bellissimo percorso, e spero che in questi giorni, insomma, lo sarà ancora di più. Sei stata esaudiente e brava. Grazie. Allora, ci vediamo a teatro. Ricorda l'appuntamento a partire da oggi fino a domenica, Teatro dei Conciatori, intervista ai parenti delle vittime. Sì, grazie davvero, grazie, vi aspetto. Ciao Melania, un abbraccio. Ciao, ciao Federico. Ciao. Ciao, ciao, ciao.